184esima trasmissione dedicata agli emigrati. Parum Pel di Riedo Puppo. Queste composizioni di Riedo Puppo, notissimo scrittore friulano anticonformista per vocazione, rivelano la personalità del suo mondo con esattezza ed essenzialità, in narrazioni pervase da humor, all'istante d'effetto comico, poi commovente. Ascoltatelo. Vigliacco. Si vise in chiamò di tutte la vuere, di par di, e a somut al riguardo anche gli sdates. Queste al dis e la storia di quanco aveva il tifo, dai prims di mai agli ultis di settembre del 17. Cumò us conti di quanco aveva la spagnola o la colerine, perché che lui alla screadis tutti gli smalatis de guerra mondiale. Ma non la fate un di diet. Nessun miedi di chi devo essere lo ha mai riconosciuto. Par vie che giuste a pont li screava lui li smalatis e nessun li sconosceva. Cumò, cale vive in chiamò, lo clami in fiori, ma in che volte lo clamava in vigliacco. Non par vie de pore, aliere sicuro di tornare a chiase, aliere partito con che? Fa male a di nessun? E il Signor provvederà anche per me. Gli ufficiali non sapevano che anche gli sbesti si avevano fatto sempre duro, o potessero crodi i cristiani. Anche se la guerra avesse durato 20 anni, lui non avrebbe scopato neanche una liserte. C'è pasta di ombre. Ma le sta disgraziata. Prima il tifo, poi la colerina, e glaciasi pis, e la spagnola, e pantan, e pedoi, simpri, tang. Allì era il mese d'avril dal sedis, quando tacà la colerine. Sot vie de Stofanis, allì era un buon metro di neve, e lì dal camminament, alava in su e giù un biel trop di furlans. Aveva improvato tutti le scuris, parfin, con buon rispiet fevelan, a sentassi te neve, a crot, ma non gli era caso di stagnarsi. Allì era ormai giornadis e giornadis e il camminamento allì era transitabile il nome di una banda. Allora Fiori si decide a partire. Alleiù paroris e dopo tanti sfadis e tanti sostis arriva sul puest di medicazione. Dos tendis, tune valete, intor di un groput di pins. Fiori lo conosceva il puest, perché che era stata anche mo per altri disturbi. Don J. Pings appassionava in due mui, d'un splaciut netà de neve. Fiori al fase un'ultima soste, si netà e poi li entrà. Cosa avete, disse all'ufficial Miedi? Sciolta di corpo, disse al Fiori. Vigliacco. Vi conosco, disse il capitano. Non disegni altri. E Fiori non batte c'è, a sbassa il chiave, si voltà, e allì si detenne. Ben planca torna su a sette pal camminamento, cence nanchi chialà la calmeteva i pis. Ogni tanto si voltava e gli stendi sa bassa diventava sempre più piccoli. Allì era sulla Montsorelli con chi si voltà anche mo, e gli stendi sa era in combe dos farchis laiù. Proprio tinchel al sentì gli primi canonades. Lui io conosceva i dusinte o tante. Arrivavin subito dopo dal colmo, agli eri impignati grandis, e l'aiute valete a facevin tutto un taramot. Gli stendis, i pings, il capitani miedi e i mui a saltare in paraier dopo 4 o 5 colps. Fiori di lassù non poté stratignisi, mi cognosto come vigliacco di sal. Ma subito una grande pena istrangè il cuor. E ieri passate l'Ave Maria, quanchi il mondo si quietà, e tutto tornare in pace. Fiori si sentà sull'orda al camminamento. I pareva di sentì come tunsium gli schiampanis de soplev sulla più biele colline dal Friul. E dentro vie, che la sentive franche, una grande lamiece di stomi. Al viodeve i suoi doi frutin sa rispuindi ola plonobis all'ornone, che tignive sui rosari palpai, che noi facessin mal e che non facess mal. E la panse i bruntulava e si chiatava i. Coraggio vigliacco, si disè di Besol, non sta quarnà par doi mui. E bel plan al tornasù a servisi sot de Stofani. Beas i viei, beas i viei, chi che non sanci che è la tappa a cronometro, e di tutti gli speraulis tecnicis di giuc a cognosi in nome fuori il mi chiamo, che i che sapevi in spume non la tegni in angi tastone. Lunedì Hermis Moulin aveva un faganel malato, al devi bevuto un incastri, un faganel che al dismoveva tutto il borg, se stava bene. Hermis al mando Emilio Varaccia viodilo. Emilio al va a chialalo, poi al tornecà. E allora disse all'Hermis, se ti sei meglio. Mal, mal, disse Emilio, non mi ha neanche conosciuto. Emilio Varaccia non vesa mens, no mo. Alla chelca la dite che cumò, si scugne tagliato tutto il formento a macchine, perché che non sono sesulis. O ieri subito dopo le svotazioni dal 40 volte. E Iacun Dos lo vese conosciuto, quel che al fu clamata rispondi ad una citazione a 85 anni, per via di un debito di 15 francs. Il giudice conciliatore impone di parare il debito. E Iacun, opai, sì, signor giudice, se il signor mi dà la grazia di chiedere lavoro, opai, sì, perché no. Quando al morì, al clamare il plevan e al fase test, tessos mans. Signor Plevan, o vares voi di lasciare 500 francs per l'Eglise e 1000 per il beneficio. Bravo, Iacum, bravo, a special Plevan, un galantom di vif e un galantom ping muart. E in due la saresti no chi sbes? Alle chelco pensi in chi omo, signor Plevan, a rispondere Iacum. Una carogna di vif e una carogna di muart, al giontal Plevan. Ma in che volte carogne al voledì di nin? Alliere tutto un altro mondo. Pensai che il vicchiare Merlus, che al veniva giù di Santa Margherita come il sfulming in biciclette, al correva s'aveso parcè. Parcè che l'era assicurato sulla vite e al tentava di colà perché passi al. In che volte nessun robava, a cirivin di guadagnarsi la vite onestamente. Vuoi invece tale un onore a farsi mantigni. Di fat checo, alla fat cont che un contadino al mantèn siet di loro. Al manco il covese la soddisfazione di sapere quai che sono i miei, disse al piloco. Avaresti di mangiare curteve, anzi, per dire la verità, lui è la dite sutile, e invece di mangiare, ha adoperato un'altra parola di significato quasi contrario. Ma contens di stesso, in buine e di cur. L'unico vizio all'era che non usava in patissee, che anzi, doi amions di breccia una volta, doi di chei che di studiava in la sedda spes, all'era a confessarsi a Feagne, per via che là, in chi timps, all'era un predica al pative tante di che sete anche lui, e dunque all'era un'evore adatta a capio. Ben, si spettaresti so vuatris una domanda di che ste fatte? C'è vin bevesa? Ben, il plevan ora fatta queste domande. Signor plevan, o hai il vizio di beve, ma o bef un'evore, a tutti le sores e tutto il team da là. E c'è vin bevesa, disse il plevan. E c'è voglia, disse il primo, caliere Beppo, robe di chiase fin candè. E dopo tai cantinons, Clinton, Merecan, Nostran, anche Bacossi or, basta che di neri. C'è brut visi coves, non saveso che il vin al pare lompa fil di bestie. Ben ben a Romai, c'è calè a lè, e par pinitinci o diseres vingi rosaris. In che volte gli spinitinci saierin un po' chialchiadutis. Il pecchiador al cedè il confessionario al suo compagno, ma quando si scambiare in il puest, Beppo non poteva fare di manco di visà la mi, che aveva non tin, Di potin, viot che io col bacò e merecan o ai vigni rosari su peschene. Tu che tu tetis butiglis, ti incapite un schialar. Ti non capì ben, li parlì, e le sot. Anche lui aveva nome un pecchiar. Sior plevan, o bev sempre, e non soi mai plen. E c'è vin beveso, disse il plevan. Sior plevan, sulla mesteme si potrà scrivere un'evore e bon. Io ho chiucci butiglis di rosacis e di faedis. A chi ret si visa desperauris dal suo amì, al capì di colp, al fermà di bot, a sbassà il chiaf e al spietà la sglavinata di rosaris. Il confessor al sclarì la voce e poi al sentenziar. Cula verità si laude Dio, saveso ci coi di Dius, quel di rosacis me pete in chiamè. Po ben, al continuò il plevan, ci ri di non passare la misura. Sì, insomma, ci rin di limitarsi e per pinitince o disarin tre gloria patris. La conclusione fu che tin aiuta Beppo a dire rosaris e Beppo al gambia qualità divina. Ma non poter in fare la comunione tal'indomani, perché calere a chiase dopo di Ave Maria di Buinore e a Romai aveva infatti richiadute. Calvà di vie, discorso di Cumiar a Pre Valentin Barachin. S'avessin di metti in file i predis, il plevan di Santa Margherita al saresse il prim, da ur il Crist, con la canae. Anche no, ovin fat che il sbaglio, come ovin imparare, mai stima la robe prima di cerciare. Quanca le vignut, Giains, si visaiso, ma se picciul per Santa Margherita. Ma iumin non si misuri o col metro, chiare o atris, o anche si può misurare o col metro, ma dal nas in su. E il nestri plevan dal nas in su alle bondan, con la coppe lunghe, cui occhiai sgrias, alle vinci un'anca al talpine a torpe parocchie, alle vinci un'anca al predichi e caltas, cal glot e calvai. Si di, Savesa, ma è brutto. Sino o no, carognis? O disin, al predichie ben, alle di cur, ma cui si ciugne per quel? Puor predi, nasù talanda i fastidis. Alla 50 si sain, e al scugne tigni il chiaftes mans, se noi scupie. L'uvin fat diventa gris e vieli, prime d'alore. O sin ne mai. Tal prim, si visaiso, al faceva gli sgaris di biciclette con pre-pacific, io per Ive Grande di Sarzee. In tunore miege all'ave a Madonna di Monte in biciclette, in vinchiain ti ha fatto la scalinata d'eglesie, il giardin, il segrà, gli statui snovis e implantassi circulins. Usata fa, non a comandà. Di fat, in che altre vuere, non l'ha potuto l'appu in devan di caporale. Se lo vedessi in ritratto di soldat dal sedis, ben, l'Italia in che volte non aveva miserie di vestis, o che faceva gli sdiachetti slungis per sparagnare capost. Però si dis, ma c'è tanti scalati patinto un ompin che smon. Vue, alle chialuni, e al va vie, a cividare. Ma c'è tu che mi importi a me, al finiti vai perché. E come a cui regole le sbanchis inglesi, cui metta questi vas, cui viodi al dai frus. Perché a qui che io sberlote si combine, ma cui io tegni al di voli, o disio. Ben, signor plevan, anzi, monsignor, io non ho voi di ingroparmi. Calva di vie, cence di nuie, cidin, cidin, si vio darin anche mo, e calprei per me. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari, dizione e testi di Riedo Puppo.